così occulto. No, poi tranquillo, io non sono brutto, lo avevo dato un buon pugno e di corpo prima eri nero dentro, il 2 e ti ho ritrovato nel 15. Strano, no? Ma che non si può caricare, devo passare a roba per messa a terra, non ti compreso. Allora non ti lamentare tu, non ti lamentare. Ah, tu sei passato un po' importante. Cioè, no, si può passare una vita un po' importante. Ci può passare dove vado i denti. Facciamo una puttina, allora però non fare le male a loro. Ma c'è anche al 15, stava come va l'amplificatore. Poi se vedi se qua non è problema mio, uno mi sento, figurati. Vedi tu, ho un sonno. Vedi tu. Dai, mi sono come te di dolore, capisci di bene. Però io non sono passato nel vita con i miei abbottati, ero sul canale 15. Sono 5 canali distanti, sono beh, non sono pochi. Se beh. Ah, già che devo domandare un bel massa per gli americani. Se per l'aria, cava. Cava, cava, cava, cava. Dai, allora clicca. Beh. Allora, c'è pure qui a te, vengo tutto, vai. Stava con destra, gara. La tosse me l'ha aggiunta, gara. Poi giù computer, ma lo trovo una seconda mano, 200 euro che l'ho portato. Pippallo. Ehi, riprendi, riprendi. Mi stai mangiando un arancio. Ma stai mangiando l'arancio? Eia, l'ennesimo arancio. Buonare il 2. Buonare il 2. Se ne va. No. E ma la veniamo. Ma che è? Se comincia. Con il pizzetto. Uscendo, sì. Con il pizzetto. Gabba gabba. Ma stiamo leggendo se stiamo uscendo. Uscendo sai, e ciao. No, di radio, sto uscendo bene, sì. Ah, di radio, sono lì, ci sto uscendo, e ciao, già sto uscendo, io ti sento. Non so se ti sentono gli altri, boh. Mi sentite? Guarda è chiaro qua. Appa, sono col Mitra. Ho scelto Plus adesso. Ehi, però con l'altra più forte di radio, Ecca, per far girare un po' questo che era un po' freddo. Ma è un po' più sotto, comunque cadi su qui. Si cade. Ma è un po' più sotto, tanto. Vabbè, comunque per la chiara, no? Ciuppino, Luca, allora siccome stavo guardando, se avevo detto giusto perché mi ha messo, ma a un certo punto mi ha messo il dubbio, io si conferma, bene, bene. Tanto, Peppa, sei arrivato un bel forte, non ti capisco, cosa hai detto? Si conferma, via Gabriele D'Annunzio. Vabbè, non stai dicendo niente. Guarda, quando io puntiglio, vai tranquillo che c'ho ragione. Come ti ho detto, non ero sicuro, allora questo zitto, sto qua. Perché, allora, che via è quella che c'era lì prima di arrivare dal bombolaio, quell'incrocio lì, che via è quella? Ma da quale parte? Sempre lì, scendendo, però quell'incrocio lì. Praticamente dove c'è il meccanico. C'è il meccanico lì, c'è il bar, quella via lì, c'è il bar, poi c'è, poi il bar si trova, c'è in quella via lì, girando verso destra, e te lo trovi sulla sinistra, lì, quell'incrocio lì, che via è quella? Allora, da via Fonte, andando verso la Pirandello. vita c'è via Lunga, dove c'è quello che vende il vino, poi c'è via Pietro Micca e poi c'è via la Gabriele D'Annunzio. Via, che ho capito. Allora, la via del Bombolaio e la via dell'Annunzio, che okay. Quella che c'è in Crucio, che via è? C'è messo la policorcio. Gli ho capito, la stai dicendo lui, quella che è in Crucio, l'hai? In Crucio, con via Cervi. Ecco, è giusto, sì, via Cervi. Mi veniva a nome la via, è giusto allora, sì. Via Annunzio Cervi, e via Gabriele D'Annunzio, sì. Vabbè, mo ho capito. Perché poi con Giacomo Pasco, il Rodrigo, sempre con Gabriele D'Annunzio c'è scelta, in pratica, via Gabriele D'Annunzio c'è scelta fino a via Pavese. Sì, è comunque giusto per parlare. Io ho la possibilità di inserire il satellite di individuo anche dove sei tu adesso in questo momento. Via Paolo. Non ho capito, ma boh, sei troppo alto per fare di... forse ascoltando male. Così mi ascolti meglio? Però qua. Perché l'ho abbassato. Passi da foto benissimo, non meglio. Stavo dicendo che ho la possibilità di inserire al computer il satellitare, di cioè mi appare la cartina di Sassa e il satellitare, poi mi appare proprio la satellite, l'immagine di Sassa e appunto l'ombra di Giulio. E sono in grado di puntare anche il programma di tu. Già lo so. Già lo so quello, ma l'ho già sentito da altra persona. No, infatti non ho puntigliato, mi sono fatto zitto perché gli accervi attraverso la via Gabriele D'Annunzio, dai, che l'incrucio, va bene, ciao, sono Attarino, ciao, sono lì, è tre. Ciao, grazie di aver ascoltato. Sì, forse è chiaro qua, guarda, Gabriele. Dottore, Daniele, per Paolo, Bobo, Attarino, a tutti, dai. Ciao Torelli, buonasera a tutti. Tore. Daniele. Come stai andando? Sono andato un paio di pizza e ho fame. Hai due, anda. Quattro. Aspetta, un paio quanto? Quattro. No, sono due, quattro, sei pizza e una te ne fai. Un paio, dai, tre paio sono. Vai dopo la fede, ore. Ma che era? La fede con le circolazioni? La salsiccia. Sì, che buona. Oh, in gabbia a Rabbe del Canarino. Ebbene, Natale. Oh. Buonasera. Ho salutato a tutti, buonasera. Chi entro? Il signore. Gava, già va bene. Renatari, torre Natari, la mette bella, spisse montari. Cacciola quel disco. Oh. Vero. Daniele. Eia, narrami tutto. Sono una bambina viziosa. È vero? E allora, Torelli, che si dice? Io c'ho un po' di fame. Se non anche qua, va. C'ho contatto. Vabbè, uno che fa senza. Siete al microfono, Ciuppino. Ho detto che uno resterà senza. Si mangia la mia, manco. Mangi prima. Come faccio? Sto la facendo. Fermi e te la mangi. Davvero. E beh. Piacere, Pino, la matrice. Com'era? Belli, saluta mia Amanda. Appesso è Torelli. Ciao Pierpaolo. Non riesco a trovare fuori qua. Beh. sai? Solo di Natale, ma da me. Se vuoi posso andare a fare i latte, latte, latte, latte. E poi per due domeni. Ecco. Lei dice una caffettiera di caffè e mezzo litro di latte. Che cazzo, ma sono un guccio io. Adesso non sia bianco, se non manca male si fa, vabbè, di schifo. Una domanda? Ecco, nella mattina dalla pantura, ci beve un tazzotto di latte bianco con la spuntata di cacao. Dopo lo fa lui il cacao meravigliato, il curgo, ha altro meglio che ha fatto in mano, vorrei dire. Ci è venuto mal di faccia, non mi trovo un tazzo di latte. Prima tu che facchi? E subito per me è veleno. Ti arriva come minimo, c'è il gatto a fuori dove sei tu. Gatta. No, per me quello lì è una droga. Ma ci mi manca la mattina, guarda, ma sono talmente abituato. Per me non deve mancare mai il latte, mai. Perché se manca sono arrovinato, sono, come dice Natalino. E io ero così stesso. Io lo mangiavo anche per cena e invece lui mi ha fatto male e mi fa male e quindi l'ho dovuto lasciare con grande malinconia. Avanti. Buonasera a tutti. Che è avanti? Non ne ho più un rumo. Quindi c'è il segretario. Non è la sua modulazione. Che è questo qua? Avanti. Gianni doppio rum, avanti. Ah, tu sei già, te lo stavo riconoscendo. Dico, microfono normale, insomma. Vabbè, cioè, ero abituato a sentirti con Calippo. vabbè, purtroppo non c'è più. Appaga, appa. Non scorreggiare però, mi raccomando, rimani, se vuoi rimanere senza scorreggiare. No, io non le faccio, io sono così maleducato a fare queste cose. Me l'ha tutti. Mi chiama molto su un bel voce, mi. Allora, per parte, la cottura. Ah, sono sputtano. Un giorno... No, un apparecchietto, poi venire una... Ciò ce l'avevo uguale io, no? Ma vuoi dare i canali? Vabbè. Ci ho messo un bel po' perché... Era uguale al mio, sì, però... funzionano diverse. Cazzo, era tu mullava. Cazzo, ma mi imbriagato, Mari. Ti imbriagato, mio mamma mia, la voglia. Era tu mullava, gli bruciava. Ciao, che non lo dici? No, dopo cominciava a ridire. Tu. Ma è stata una portante. Già, mi senti tu, Mari? Eia, se non mi sei la portante per sentire... Ma non gli facevi niente. Cava cava, tu me l'hai detto che. Qua la bancale già si è sentita. Se la seguo lui, lo passo lui, però. Non c'è quel problema. Stava sputtanando per questo. Ci si tocca però, eh. Ma sentito se cosa ha detto, bastardo. Piano piano si è inteso. Com'era lui? Cosa? Com'era? Non ricordo più. Cosa vuol dire com'era? Quella che stavo raccontando, non lo sento. Ah, dove vuoi nella portata? Ora vuoi che indi? Perché non si vogliono passati? Luca, raccontala meglio, non l'ho sentita. E praticamente stavo per muovere dei canali, ma poi ci avevo uguale io, no? Però era... insomma, erano uguali, sì, ma le funzionavano diverse. E mi ha dato una, ma si pulciava. Ma la voglia, una voglia. Ah, va, ricevuto. E poi ci vuole arrivi, diciamo sono io, la te l'hai data allora. Viale Gianni, grazie. E poi, ma non uno, no. Da tutto un bel, mamma, ma... C'ho un medici, se sono tornato da lì, ero... sconvolto, di più. Cazzo, non ci tengo, ci vogliono fare dose. Esagerato. E non mi sa neanche i cosi, no, già. Che cazzo. Dai, già con in mezzo, ma non è drogata. Ehi, ma sconvolto, cazzo. C'è che sta mangiando la lì. state cazzo. Non lo sai, come uno che conosco io. Lascia morte proprio. Guarda uno che conosco io, mi cignale. E cani? È una persona, non lo posso dire qua, cazzo, ma dice una via, mi pensa fuori, all'aperto, lui era dentro, sempre a piano terra noi, noi eravamo fermi fuori. Cazzo c'è un sogarello da gente su stupiato, bustino da lì. Allora però una trapassola io ha detto ma indietro e non intendi a chi, mamma mia, un tanto di nostri dico appaio pure amico. Edoe. Chi è che ha detto Edo? Io l'ho detto, non sarà Edo. No, no, no, no. È una persona non lavoro, eh. Chi chi della magia? Siamo di magia, bravo! No, no, no, no, come questa che ti sto dicendo, mi dico, voglio io, via. Cazzo, da un tanfo, terribile. Vabbè, a me me l'ha spesso una volta di scottetto, c'era un bel progetto, non c'era manco posto per guardare. E alla fine ho trovato la strategia, ma che mollatura si è fatto uno spazio. Si è gastato un congetto, mamma. Poi ce n'è un altro, no, non ve lo conoscete, ma è amicidiale, ma è amicidiale. Ce n'è un dumudumi, ma che ma, che è un dumudumi, una fogna. Una fogna, cazzo. Ma che stai mangiando, viuste? Ehi, ma non dico io, c'è una fogna proprio, eh. Guarda, se tipo vuoi la fogna, ci mi fai più due la fogna. Micidiale brutto qua, mamma mia. È micidiale questo qua. Quando molla, la mia la mascherina che trattano a cosa, pure su d'ora. Ehi, chi è che tu non vai là? Oh, Luca! Ehi già, ma a me va a capo, no? Non dico la sempre a gusti, ma più si... Ma non è così, è il marcio dentro, eh. No, i fagioli a me le vanno a fanno, le patate del carciofi, si greppa, non bene, la fai lì. Tira fai a me uguale, sono le castagne, mamma mia! E stasera sono predisposto. E me? E Beppa? Andati a portare una suora all'ospedale lì dalle suore di clausura, no? E quando passano nei corridoi, ci sono dei corridoi lunghi, c'è una suora che passa con la campanellina perché le altre si ritirano nelle loro celle, no? Per non farsi vedere. E c'era questa, era bassa bassa, camminava con questa campanellina davanti e scintillava lì, cazzo, mi abbasso e via, mi mollava uno, ha detto, ma cosa è, la luce è la campanellina, e dico, no, lascia volontario un argomento, non me ne pare mai, già chissà. E invece io una volta ho portato un malato all'ospedale, e mentre ascolti mi accompagni in bagno, che io non ce la faccio da solo, vabbè, l'ho portato in bagno, che devo fare l'attacco, vabbè. Mentre lo stavo accompagnando prende bro bro molla nel corridoio e c'era tutti quanti guardando, io gli ho detto mica non sono io. No, la volta no, scusa, era accusa andarissimo, guarda, se non mi trova nuda, no, era Guido, questo era il discorso, eh? È un discorso di cacca. Comunque per parti posso garantire che il giorno mi ha ucciso, guarda, credimi. Ero se mi hanno interrato me ne andavo. Mi hanno interrato a chi era micidiale. Ma come sei a Puscia? Capisco magari come ti scappa a fanno a più che. La vicinava è bello, non ce la fai. Mulla si allontanava. E lui cominciava a ridì. E la regola si è mullato donna, mamma mia. Oh, io non sarei voluto essere lì, eh. Mai. Cazzo, già ce l'ho più di capelli. Proprio a... vabbè. Non so, è una cosa naturale, no? Non dico io. Comunque sono più... puzzolenti quelli silenziosi e quelli rumorosi, eh. sveglia. Comunque mi ricordo di Edoardo una volta mollato, uscendo dal Monte Lettiglia dell'ospedale, no? Ha mollato, quindi, uscendo da lui, da quello ha mollato. E stavo lanciando altri, sono entrati, senti, sono preso a fare degli altri. No, sono cambiati. Una volta sono andato in continente e all'autogrid ci siamo fermati perché dovevo andare in bagno, sono andato in bagno e c'era questo qui aspettando. Dopo che sono andato io sono uscito e dato questo qui si sente mamma mia che odore! Cosa c'era poco? Mi sono anche i barrili tutti grandi, c'erano gli amici lì tutti qua per rivedere. Ci sarà ancora i limiti. Parlare di una cagata. Via. Vabbè. A me è stato sempre utile però. E perché? Perché in discoteca per esempio facevo spante, come mollavo se largavano tutti e io ballavo. Se tipo vai carico, non so, di. Ci sto mangiando un bel po' di castagne e poi c'è una discoteca e molli lì. Oh, io non niente fuggenti. Perché adesso non si fuma, non si può più fumare. Ma se guidiamo me se intendi. Non in tutte le discoteche, sono discoteche dove si fuma. Comunque voi non lo sapete, ma le donne sono le più puzzolenti. No, non ci credo. Non ci credi. Può darsi che se ne sta dicendo c'è qualche profa. Poi quando mollano, mollano cuccia cuccia, ognuna. Si crede me le mandi bla bla bla bla. Ma ci loro mollano come noi, se noi lo molliamo lo lasciamo andare, no? Loro mollano cuccia cuccia. Via, via cuccia. Oh, via, via, va. Allucinante. No, a Gianni Giorno va. Però sabbi c'è un briago proprio scombussolato è lui tranquillo serio e poi lo guardi a buccia perché poi l'ho tratta per una volta chiama un lato e no ci buoniare lì vabbè non ci potevo rimanere lì mi metteva a terra il bombo anche lasciato in terrazzo e tu vieni lì a tu no sono io e ci buoniare lì vabbè. Ma non so quando mi usare questi canali. E tu veramente mi bocio. E mi stava guardando, se certo, mi stava guardando, no, come stavo facendo. Però a molle e sei allontanato. Se tu credi sapete sei allontanato. Ma anche lui in base va lì. E infatti quella parata ha fatto una fine. Infatti, proprio. Guarda, le cose cazzo a pennello già. Ma tu c'era. Cosa? Silenziosi erano. E i cascuri sono più pericolosi. Ma aspetta, c'è presente quello cucino. Silenziosi, sono a rischio di lasciare anche le sue sciarpe, le unghiate. Già, c'è cosa non fa, non fa, non si colica con tua moglie. Ui, ui, ui, sono ammazzi. No, non le faccio, una volta non le faccio. No. Eppure glielo chiediamo. Se ci vuoi bene di onde, se ci ah, ne faccio che sono educato. Ma comunque, qua sono troppo pericolosi, quelli schiacciati così. Lascia, avrei strisciato nelle montagne. Ascia. La schiccia. Ascia. La guarda. Ah già, questo lo conosco io, Mollaffa, silenzioso, e se lo portava presso, era una cosa allucinante. Che tu cosa hai mangiato? Ti hai mangiato anche... non so, roba guasta, mi hai mangiato? E ci muoveva lì. E poi mollava e si spostava. Si portava e allora c'era sempre. Quasi ma di 5-6 metri, ma si provava, non via, via. Già, non vedo, ma lo capare anche in Italia. Natale io conosco con te, ma ne ho fatto, di la verità. No, mi sono gridato, mi ha fatto un bastardo, è bugiato, resti crescendato. Sì, sì. E a me non mi racconta che mi ha fatto bugiare su cari. Forse della mussarella, racconta, racconta. La mussarella, cos'è? Avevo compagnia, l'avevo messo a cento. Dopo il tra l'altro stavo facendo 2002 io già al bar e in bar oppure nell'oratorio, le fialette, quelle che puzzano, le buttavo come le sei mai uscito. Allora, non vedi che ti bucciano da dentro? Io noi l'abbiamo fatta a scuola, professoressa. Cazzo, mi auguro, Viago. Ragazzi, state seduti, state seduti, buccia, da padrona di Città Buruenda. Sono mai puzzo che ti ho lasciato. No, se vuoi fare dei uova a marcia, cioè, roba così. Mamma mia, io ho sentito un fiacco. Uova a marcia, ho sentito l'altro, non è che fa. Io già ho sentito, già. Una volta mi è capitato a me, stavo facendo uova fritte. Metto il primo uovo era normale, metto il secondo, un fiacco, e c'era la sembianza del cucino dentro. C'era il cucino, le cose, il grumoloso, rimaneva. E con la forma del cucino. Niente. Vabbè, sono cose naturali, naturali, come l'acqua naturale. Gappa, gappa. E vabbè. Ma poi ti ha curato questa affare, dove l'avete mangiata? A via Usai. Ciao, buona rete, che in chiusi che è buona. Altro che quello di via Russa, c'è un buon imbucciacca. A parte che è cucinata a forno a legna, se non vado errando, No, no, è con forno a legna. Non ce n'è. Facciamo otto volte, poi dice, ma vai lì, ma vai, anni che non esci più. No, invece ci abbiamo aspettato poco, è vero, che fa? C'era poca gente. Guarda, fa buona, è migliore che a Sassari, C'era Sassu, Fizzu c'era pure, la faceva buona. Ma buona quello che c'è, aspetta, che via è? Però può essere il corso di Vittorio Emanuele, assumo quello che via. Sì, anche quello lì è buono. Via Usaie. Sempre pieno. La fai che vuole cucinata con forno a legna, già. A parte che è più sana, uno, poi è più buona. È tutto più buono con forno a legna. E la stessa cosa tu cucini il pollo a casa, in forno, lo cucini alla braccia. Prova a vedere quanto cambia sapore. Non so. Caraga. È il pollo del pollo, sembra tutta un'altra cosa cucinata alla braccia, ma un sapore così buono. E non so, mentre il pacaracca che chiama a Zenna, va, il suo trabbiglia, va. Ci ripaccano... E so che ha mai Zenna, però si ripaccano il cilindro. Ma adesso c'è il disco, se mi molla, quello ce l'ha messo in faccia, eh. Ma fatti sapere, non è che in un caso che mollava, mi aveva a faccia. E se ne aveva dentro la moscia. Vabbè, devo ripaccare anch'io. Sono allenate quelle, no? Io sono professionista. Certo. Guarda Rugosi, Luigi Carino. Cos'è, rock and acrobat? No, lui ha da cosa, Maria De Filippi. Ah, De Filippo. I nemici di Maria De Filippi, non gli amici, i nemici di Ovissi. Senti Carino. Fate la brava che il nemico vi ascolta. Se non c'è da rivale, già. Sta ballando questa qua. Andava. Che dire, riprende voi, dai, vi ascolto io qua. Gabba. Bip. Te mi sono cominciato ad avere risate stasera. Perché tu sei bucaccione, ti piace le cose bucaccione. Ma tu hai detto mucarella, non so come vuoi dire mucarella, Mussarella. Mussarella ha detto, per dire mortadella. Già si è detto anch'io. Se mucarella, già ti butti di prendere le poste. Oggi è mucarella, oggi è mucarella. C'è sassare, c'è mortadella. È mucarella. Cadella. Cadella. Oh, no, ma... mai sentito, sinceramente, mi sta avendo il dubbio. No, in Bari, non sono sicuro, non sono sicuro perché, non lo so, Sassarelle, Mortarella, in italiano, poi ci siamo Bucarella, non lo so, ma tu hai detto Bucarella? Antonio l'ha detto, vabbè Antonio, recidivo. Natale, come si dice Bucarella? Abbiamo preso un paio di etti di preudi, lì già. Ah, ecco, Natalino mi ha sentito. Si chiama adesso Montella, si chiama più Montella, si chiama Letti di Preudi. Già, tutta fettini. Perché di Preudi? Perché lo chiamano Mortadelli. Ah, ah, mi sono legato, due di Preudi. E mica ci va già un bel gente. Li ho sentiti anche io la Sisa, due di Preudi di là. Se mi capita, che me ne ricordo, due di Preudi. Ehi, come vai, mi ha detto il dottore di apprenderla, che c'è un bel profumo, o lui. Natalia, abbiamo fatto un corso di salumeria, no? E cosa hanno detto? Che la mortadella più profumo c'ha e più c'ha conservanti e queste cose qua. Ma chi si fa fatta pizza, la questa siamo la casa di usaggi. Canta, ma almeno un profumo di quelli proprio a tutti dei negozietti piccoli, Luca, il profumo di mortadella, si prendeva la fuori. Natalia, toccata che quel profumo, io se ne pigliamo tre etti, esce i panini, e via, ti devo battere i panini. E vai, poi ti viene. Non so, questa è la migliore c'ha la più luce, quella col, non con i pistacchi, ma col pepe. La bismara che buona, bismara la più luce, c'è anche la sisa buona. C'è quella che fanno la nuova visita del Porto Torres. Esatto, siamo in pubblicità, va, sisa. No. Guarda, io la prendo la sisa, è buona. Ce ne sono due, però ce n'è una che è tutto buonissima. Oh, non è perché sto facendo pubblicità, ho detto che è buona anche la bismara, per dire. Sì, sì, sì, vabbè. Eia. Che comunque la mortadella col pane caldo la mangiate, è buonissima. Io d'estate capita, non lo faccio, Con un bicchiere di birra, va. Bombo. Anche due te ne puoi mangiare. Io lo so di birra e c'è al busto. Allora io lo sai cosa faccio? Quando vado alla Sisa a fare la spesa, aspetto che facciano le baguette, belle carne, mi prendo la mortadella e vai che ce n'è. Mussarella. Adesso questa lumiere dove vado io qualche volta, la sta portando una enorme. E fa tagliarla e poi un manchetto, perché è molto molto molto grande. Ma che la pasta di Preudi, no? C'era l'anca. No, se lui se la pasta già, la giro vita. Ma la mortadella è la cuscia, non è l'anca. Ma appunto malissimo già, appunto malissimo, ma se hai di grosso, non vuoi la pasta, ma che tagliarla vuol dire la pasta. Ehi. Poi si fa di puro il prosciutto, dalla coscia. Vai Daniele. Ia. Beh, ci sta anche mo' meccando a dormire, altro che... Se non lavori, come? Aspetta Daniele, sta portando la fede. E chi sta portando la fede? Fratellino. Oh, non ce ne danno. Sì, la sta portando qua, la porto io dopo, passo per uno. Ah, così è. Aspetti. Io l'ho già mangiato, se vuoi fai come ti confetti. La cipolla già. Eia. Ormai non mi piace a me, non mi ci scende, ma c'è la cipolla neanche da di più. Con la salsiccia una volta l'avevo mangiata. I pari, mi sembra. Ma comunque già ieri, quando sono andato giù alla ghiera a pescare, mi sono visto... 3, 4, allora, 1, 2, 3, 4 partenze, proprio bassi di aerei, lì da Alghero, passano lì, praticamente ci passano in testa, cazzo, facciano questo faro micidiale, che a volte illumina. E poi ce n'era uno di quelli piccoli, però, quelli a pochi posti, non so se erano 10 posti, qualcosa in più. Stava cercando di atterrare, però sicuramente non gli hanno dato il via, lui non gli rendeva più il tuo. Ma nel cielo vicino a te qualche aereo è passato. E via. Sentito, E va. Via. Una mosca era. C'è una mosca era. Probabilmente stava aspettando che qualcuno dovesse decollare, capito? Perché già. Poi si è visto che stava atterrando e dopo di Godibus 10 minuti è ripartito. Vabbè, sono andato a fare il rifornimento magari. Capita anche che vanno a fare il rifornimento lì all'aeroporto. E vabbè, ma l'aeroporto è anche non è nulla, quindi per dire che l'aeroporto è ui, vai a Roma per dire. Un aeroporto che ti perdi. Perché quello di Urbia non è piccolo lo stesso? Quello di Urbia non è piccolo, ma quello di Roma è tre volte più grande. E vabbè, non l'ho mai visto, perciò non so cosa dirti. Non l'ho mai visto. Ma ti posso dire una cosa, non l'ho mai visto decollare un aereo, mai. Fermo sì, ma decollare mai. Io già l'ho visto, una volta. Addirittura Marco è fissato con gli aerei, l'abbiamo portato anche al Ghero. A Urbia ha voluto andare per l'aeroporto, è fissato Marco. C'è tu un aereo o un elicottero? Guarda, ce l'hai alla giudice, quelli telecomandati, quelli che dici tu. Sanno anche poco. Allora, se me lo faccio, il modellino. Quello dei vigili del fuoco. Adesso mi informo a vedere quanto avviene. Lo piazzo io per un piano. Poi se la verniciare. Ma vediamo un po'. Ho invitato Angelino, vogliamo fare lui. Paga lui. Ma non lo voglio fare perché è brutto pure, no? Come soprammobile. Mi ha detto troppo già. È bello, bello. È bello, bello fare tutte e tre, polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Alla fine non mi piace. Io dei carabinieri ce l'ho. Grande. È modellino però di abbastanza grande, no? Va bene, te l'ho fatto vedere. No, da poco l'ho preso, infatti ho pensato a te. Hai detto? Mi è piaciuto ma l'ho preso. Se non sono indiscreto, troppo. Quanto? Guarda, volentieri te lo direi ma non me lo ricordo. Non mi ricordo, è quello di Natale che l'ho preso. La scusa, hai regalato a Marco. Sono preso. E vabbè, più o meno 20-30. No, non me lo ricordo di una cantata, perché abbiamo comprato anche altri giocattoli e quindi non mi ricordo quanto abbiamo pagato, però è bello. Ma non costano molto, dai, non penso che questo non ti senta io. Ia. A giugavide. Sì, sono belli. Sono belli. Già, ogni tanto capita, Capita. Una volta ne ho visto uno. Qua in zona, di basso basso dalla parte del grattacielo, ma è basso . E poi lì nella zona di dalla Gonzaga, una zona lì più o meno dai. Tu vai, mi ha trovato su Cuba Sud. Questo per me era quello di quello dell'esercito, non l'ho mai visto. Arrivo lì, sono di uscire, non lo vedevo. Poi sono salito più in su. E si è visto, ma c'era l'incontro dell'esercito. Stavo aspettando, ho aspettato lì 10 minuti, un quarto d'ora, ma si è partito, vedo mi sono andato. Invece, io li ho visti proprio lavorando, c'era l'altra una volta all'attore, se c'erano i pompieri, facevano tutti le simulazioni. E c'erano anche loro in elicottero, tu devi vedere, buttano la scaletta mentre l'elicottero sta camminando e c'è il pompiere che si cala nell'incendio, no? È una cosa allucinante. E poi l'elicottero sta fermo nell'aria e praticamente prendono i feriti, quelli ustionati, se li mettono in spalla e se li portano su. Dove è la torre? Via. E praticamente ero fatto vedere anche l'incendio macchina, spettacolo schiumoglio, io ho fatto la fotografia, ho addirittura la diapositiva. Una volta, non è, due anni fa, tre anni, adesso non mi ricordo quando, però facevo vedere, atleti, questo elicottero faceva dall'alto, scendeva e risaliva. Tipo uno spettacolo, eh. Non ho saputo volere anche che c'era, perché se usava più era stato pure a vederlo, non questo lì a 3G, ma a te ne uno. E una volta mi hanno detto, non mi ricordo chi, che avevo atterrato l'elicottero lì al quadrato, ne ha scaricato uno e si è ripartito. A Porto Torre succede molto spesso, ho visto quella spiazza che c'è di fronte allo stadio a Porto Torre, si vede lì. Ma ti sento un basso, eh? Ho detto, l'hai mai visto quello spazio che c'è in via delle Vigne di fronte allo stadio? Lì, quello spazio che c'è alla fine di via delle Vigne. Lì atterrano quelli dei carabinieri, molte volte. Caricano quindi, qualche personaggio famoso, roba del genere, dei carabinieri, no? Dei tipo brigadieri, caporali, eccetera, eccetera. E poi c'è la macchina dei carabinieri, va a prenderlo e loro ripartono. Non ci ho presente la nostra spiazza. Di fronte allo stadio che c'è via delle Vigne, alla fine di via delle Vigne è quasi arrivata a Sant'Inter. Ma ti è capitato di vederlo a te? Sì, sì, l'ho visto proprio mentre si atterrava. È bello da vedere, è messo un bel. Bello, c'è un bel. Sì, stai dicendo che una volta avevano passato un'antenna, ma tu sai io che te la prendi quando abitava a Carbonazzi. Io sono salito e poi mi sono arrivato all'elicottero. Cazzo, non l'avevo mai visto, mi sono fermato lì. Stavo parlando con Claudio, ma tu nel mio gruppo di vedere, vedo sempre. Mi sono fermato lì, diciamo, di gente che stava guardando, bambini anche, gente grande, grande di me. Vabbè, lo spengono, stava quasi spento, Come li fare gli occhi, insomma, fanno bene da vicino. Però avevo un po' di vagogna, però poi mi sono fatto faccia di culo, mi sono detto, ascolta, informatene. Posso avvicinare a vederlo perché no, un po' una creatura già, una creatura. Sì, come lo fai? Se l'ho visto qua. Sono rimasto a bocca aperta. E poi ho aspettato altri 10 minuti, forse un quarto d'ora che partisse. Cazzo, uno spettacolo, minchia, fa. Quasi un casino della Madonna. E tutta l'area che becca attorno, ne è alza tutto quanto a terra. È pieno di strumenti dentro, bellissimo. Cazzo, mi metti troppo gli alici di gambo, non lo vedo, troppo bello. Io ne conoscevo uno di ricottolisti del Vigili del Fuoco. C'è uno che abita lì in via Campidano, proprio lo guida. E cosa aveva? Una passa. Mi sembra di sì, io non sono sicuro, Qua ci sto pensando, ma c'è un'altra macchina, Fiat mi sembra che sia nuova, non mi ricordo che macchina è. Guarda, è grosso lui, la moglie in gamba. Allora, io ne ho fatto uno di incidente stradale, praticamente hai visto la brittella. Eh? All'ultima curva, quella che poi porta sulla strada, sulla 131, che va verso Città Mercato lì. E praticamente questo T50 con quattro tipi sbronzi a bordo si è sparato con la curva, si è sbattuta frontalmente a questa macchina che era praticamente diciamo il pilota dei elicotteri del Vigile del Fuoco, anche se non ho fatto male. Loro si sono praticamente sono rimasti appesi al guardrail, sotto c'è la fogna che passa aperta. Sopra il guardrail sono rimasti in bilico, tanto è vero che io quando sono arrivato con l'ambulanza ho chiamato subito il Land Rover per tenere col vericello la macchina in equilibrio di modo che non cadesse giù, ci sono ancora arrivati con i puntini perché dovevano tagliare la cappotta perché erano tutti incastrati. E hanno fatto un taglio, hanno fatto la cappotta e l'abbiamo portati via. E ce n'era uno che era un bel, faceva male lo stomaco, aveva sbattuto un bel forte la pancia, lo stomaco, un altro che era che non dava segni di vita, che era proprio sicuramente era o svenuto o addirittura stava per andarsi. Poi fatto sta abbiamo trovato delle bottiglie di whisky tutte vuote dentro la macchina, tutti i medicinali. Nei torrenti. E questa qua era, cioè, sono soprattutto a questo tipo che era un elicotterista. E allora, adesso sono portati qui, sono andati a finire sopra il guardino, che rimanevano in bici con le rotte di davanti verso la parte del burrone e le rotte di dietro verso la strada, così in bilico è rimasto. Allora siamo arrivati con le robe d'urgenza, ho chiamato e col vericello, l'abbiamo legato il vericello per tenere l'equilibrio, in modo che la macchina non cadesse giù dal vino. Comunque se dovesse capitare già, se ti dovesse capitare qua in zona di casa mia, vedi un elicottero basso, vuol dire che lui sta salutando la famiglia. Ah, vedi. E sono delle cose belle. Io una volta ci ho seguito sul elicottero dei carabinieri, ma purtroppo per un incidente molto brutto, in realtà è stupido. E hanno richiesto due barili, siamo saliti io e Edoardo, no? Collega, siamo, le altre due ambulanze sono partite, le ambulanze con un barelliere che con i feriti meno gravi e l'autista, e noi siamo saliti sull'elicottero con quello più grave, l'abbiamo portato al Gonzaga. E beh, è bello, no? Già. È bello, ma cioè, la verità è che non stavo pensando all'elicottero, stavo pensando lui che non mi ha messo male, gridava, ma brutto incidente, una ragazza in moto con uno scontro frontale con una macchina che praticamente ha preso il controllo in curva e gli è andata addosso. E vabbè, non so che stai pensando al ferito, ci mancherebbe, ma anche lì, cioè tu lì sull'elicottero, insomma, non so se ti è piaciuto o meno. Avevo un po' di paura. Non lo posso immaginare. Non lo posso immaginare. Molti d'aria. No, era una bella giornata d'estate. Sai cosa c'è? Che quando non ci sei mai salito, già io ho paura dell'aereo. Mia moglie mi dice facciamoci un viaggio, andiamo in aereo. Ho paura, già. E poi mi fa, i gaggi di brutti. Ragazzi, mi può fare giù tu e mi impara. No, vabbè, dipende anche già. Dipende, lo so, anch'io avrei preferito farmi più un giro in elicottero, però normale, senza fare un macco. Se no, no. Se va normale, come li vedo, tranquilli. Ma si inizia a fare, sai, fare la ricò e poi vuoi risalire, no. No, manca a terra io. E quella era un'urgenza, hanno pompato, era un'urgenza, quindi dovevano andare. Cosa ti stavo dicendo? Ma sempre che te lo dico, io avevo un amico che stava facendo il militare e mi ha detto un giorno, Tadafi, ma non dovevi partire, lo sai chi è? Era fratello di Gianni la Regina. Ah, ho capito. Gavino. Mi ha detto, oggi lo sai, devo partire praticamente oggi per arrivare domani, ma visto e considerato che sono, che posso prendere l'aereo, mi prendo questa soddisfazione, visto che non ci sono mai andato in aereo, mi prendo questa soddisfazione, me ne rientro in aereo, così faccio prima e arrivo in orario. Vabbè, allora ci possiamo stare tra 6 dicembre, siamo stati tra 6 dicembre, lì domani mi è partito, l'aereo è caduto, morto. Quel giorno ero meglio di Attica, un bel ragazzo, i capelli di abboccoli, lunghi, gli occhi chiari, era un bel ragazzo veramente, poi l'ho visto il giorno prima, ti puoi immaginare? Vuol dire destinare a quello, già purtroppo capita, è così. E vabbè. Chi c'è rimasto? Abbiamo un po' monopolizzato. Per Paolo, non so, Antonio, Daniele, Michele, Cicillo, Caccallo. Chi è rimasto? Natalino, riprendi tu che sei un po' partito. Natalino, non riprende. Torellina. Ora vi saluto. Che vuoi fare a nonna? Ciao Daniele, buonanotte, grazie, sempre che c'hai un sonno da non resistere. Ehi, mi stavo ascoltando, ma non avrà fatto più. Ehi, vabbè, vai a letto, fai su di loro, ciao ciao. Ehi, dai, ci ascoltiamo domani. Ciao ciao, buonanotte. Ma non potevi dire, Daniele, ma non potevi dire. Qualcuno l'ho visto pure io, lì nei parcheggi è atterrato. No, ma qui si ha detto. E se mi sono controffendi, all'elicottero sono compensati. Ah, ti è rimasto, ti chiamo Romero. Per fare te. Io ciao, buonanotte Daniele. Ci risentiamo tutte le mani se coincide. E anch'io sono salito tre volte, sull'elicottero. Ciao Daniele, buonanotte. Io sono andato anche al Gonzaga a prendergli un ammalato. L'avevo massaggiato da equipi all'ospedale, un ammalato cardiopatico. Un ragazzo giovane. Quando siamo arrivati, è arrivato in cardiologia, il dottore ci ha fatto i complimenti, vabbè, eravamo tutti sudati. Eravamo in due, non mi ricordo con chi ero. Tutti quanti sudati dal massaggio che l'abbiamo fatto, ci davamo il cambio e cose per non farlo crepare, per non farlo andare in arresto, massaggiavamo il cuore e tutto andare. E ho fatto all'ospedale, ci avevo fatto anche i complimenti, dottore. Ascolta, tu questo, quando ti sei salito su quello dei carabinieri, da dove per portarlo lì alla Gonzaga, da dove si è partito? Stava nella strada, siamo atterrati, in strada, in una campagna di vicino. No, ma non era dei carabinieri, dei vigili del fuoco. Allora avete fatto un poco tragitto già. Sì, in che senso poco tragitto? No, è atterrato lì nella strada della campagna che c'era a fianco dove è successo l'incidente, lì a fianco. C'era un prato e è atterrato lì, noi siamo andati con la barella, l'abbiamo preso e l'abbiamo portato lì. Ma sei anche tu sull'elicottero? E allora? Ma avete fatto poco tragitto, però da lì, tipo la mia Torres a Gonzaga, così è? Da Porto Torres, dalla strada per Spintino. Sono noi che siamo poco a poco, comunque fate in fretta, dai. Sì, 10 minuti eravamo a Sassi, almeno, eravamo a Sassi. No, ma grazie a Dio si è salvato tutto quanto, perché poi abbiamo seguito la storia e con due tedeschi. Mandava. Ah, 10 minuti, no, di più, di meno, già, che ci metti un quarto d'ora in macchina, la strada che non c'è nessuno, fai prima, 5 minuti ci metterà di qua. In macchina ci metti di più, ci metti 20 minuti camminando a 120 così, di minuti, poi in più non è a portatore, ma era sulla strada estintiva, te l'ho detto. Era a livello quasi di Monte Rosemi. Non è cappa. Iaia. Vabbè. Montenato l'ha fatta. No, non vola Montenato le ricordo. Sì, in alto sì, ma non eccessivamente. Non è che vola come l'aereo le ricordo, no. Sì, vabbè, ho notato elicotteri alti, un bel. No, questo qui no. Non volava altissimo, va. Non diciamo che si vedeva la roba piccola, però non era molto alto. Ma una volta è capitato già. Ci giù. Non mi ricordo che era una offa 10 forse, non mi ricordo, ma no, è stata una palla. Due ricotti, uno davanti e uno dietro, dei carabinieri. Magari stavano sorvolando la droga. Una volta è capitato l'antincendio e dopo che avevano domato un incendio, ho fatto fare un giro ai volontari. Bello. Questa è una cosa bella. Te quando c'è bel tempo però. No, vabbè, loro volano lo stesso anche se c'è il vento, ma butti d'aria, non è. Gli elicotteri c'erano un'etica, non possono viaggiare di notte. Possono viaggiare di notte? Che? Ma gli elicotteri non ci non ne hanno, né c'è la notte. Ma io te l'ho detto. Io te lo dico, perché quando ho portato quel tipo, non so se te l'ho mai raccontato, una volta ho portato un tipo embolizzato all'ospedale, perché c'era la camera ferbarica di polso e c'era lì a Marizza che non stava funzionando, quindi ho preso e l'ho portato all'ospedale di Sassi. Lì mi hanno detto praticamente che non c'era assolutamente rimedio perché non avevano rianimatore ferbarico. E io non sapevo cosa fare, ho detto guarda che l'embolo cammina, lo sapete meglio dire, se arriva qualche organo, se arriva qualche organo vitale, ma non ci possiamo fare. Allora cosa ho fatto? Io ho telefonato i carabinieri, perché non mi volevo prendere la responsabilità. E infatti i carabinieri sono venuti d'urgenza, non so come è riuscito il coso fermato. E anche i carabinieri hanno detto non si può portare a Cagliari perché l'elicottero non viaggia di notte. Ho detto stesso loro, quindi hanno fatto venire un operatore ferbarico a Sassari e l'hanno messo dentro in camera ferbarica che ci dà lì all'ospedale. Allora, non è che non viaggiano, in Sardegna sia Fenoso, sia Giovistano, non ci sono gli elicotteri né dei carabinieri e nella polizia a volo notturno e non abbiamo neanche i vigili del fuoco che ci hanno a volo notturno. Però gli elicotteri a volo notturno esistono e qua in Sardegna ce l'hanno soltanto l'esercito a volo notturno, cioè sarebbero che sono degli elicotteri che sono come gli aerei a volo cieco, cioè con la strumentazione. E viaggiano anche piuttosto alti, perché gli elicotteri dei vigili del fuoco, vi ricordate una cosa, che non salgono oltre i 2500 metri. E quindi non ci sono neanche vuoti d'aria, perché i vuoti d'aria ci sono oltre i 5000 metri, anche i vuoti d'aria c'erano, no, perché non salgono oltre i 2500 metri, e i vuoti d'aria ci sono oltre i 5000 metri. Comunque gli elicotteri da volo notturno ci sono, esistono e ce l'hanno soltanto l'esercito per Sardegna. Beh vabbè Peppa, ma non ci sono buchi d'aria, ma gli spostamenti dal vento, sai com'è, no? L'elicottero non trova i buchi d'aria come l'aereo, quindi i buchi d'aria si trovano oltre 5000 metri. Allora l'elicottero siccome ha due al rotore centrale e quello posteriore, tra uno e l'altro, trovano non il vuoto d'aria, ma trovano una specie di vortice quando hanno un volo particolare che si avvicinano specialmente a, come posso dire, alle montagne, a quei luoghi, ma non sono vuoti d'aria, è un vortice che si crea su se stesso. Io. Tu ci hai seduto tre volte, così? Tre volte, sì, tre volte. Due volte con quello del vigile del fuoco e una volta con quello della postale. Dove andava? Se fosse un casco? No, niente casco. Niente casco, soltanto la cuffietta e basta. Per il rumore, ma non nel casco, non c'è il casco non da solo loro. Ma lo sai cos'è, va tutto bene quando viaggiano tranquilli, ma quando vanno anche di fianco, perché vanno di fianco, si innalza tutto quanto in maniera più un mese prima, a chi non mi si è abituato naturalmente a quel volo così. E poi quando sale la terra che va da uno scatto che magari per loro non è uno scatto, ma per te che non ci si è abituato è uno scatto bestiale. Ti senti un pochettino strano, ecco, ti senti, come ne so, no, anche io ho sentito anche delle, tipo, delle scosse. Vabbè, mi è cambiato così a capo, come ti ho passato. Ecco, bravo, proprio così, come ti salta, no? È una specie di spinta che ti senti nel corpo, come, non te lo so spiegare, vibrazione, ecco. Yeah. so cosa è bello, a me non va. Ma a salirci no, però è bello. Vedo. Campare fissato, insomma, io fissato, ma da piccolo aereo no. No, non avanti da più, tanto la vedi. Sì, lo guardo, ma non, non è che sa cosa tutti i mattini, non bene, ma è il conto omicidiale. Anche a me piace quello dell'elicottero, ma non mi piacciono quelli spogli, mi piacciono quelli proprio tipo quelli che piacciono a te della polizia, i carabinieri. Ci sono anche quelli elicotteri spogli che sembrano pari la cosa, la carrozzeria è base dell'elicottero. Esatto, è vero. Sembra vuoto, ecco. Ma tu prendi quello dell'esercito per dire, no? Ma non. Sì, no, lo guardo, ma non mattina. Una volta è capitato già, stavo facendo a lavorare, quando consegnavo i giornali, passo lì per salire alla bretella, no? E lì in quella campagna, sulla tua sinistra, c'è uno spiazzo lì. E c'era l'elicottero. Mi sono fermato lì, per andare avanti, no? Avevo imboccato appena la bretella, più su mi sono fermato. E praticamente c'era due parti dei carabinieri, i posti di blocco, perché era sparito questo signore, boh. Ma no, ho pensato a un rapimento. E niente, e stavo aspettando lì, boh, adesso, 10 minuti, circa, per vedere se partiva. Era quello più grande che hanno loro. Poi ci vedevano che erano dentro, c'era uno sportellone aperto, e stavano, insomma, stavano facendo. Che l'elicottero, no? Ma io mi ce la vivo. Quella è la prima volta che avevo visto l'elicottero proprio a terra. Sì, mi pare che abbia la campagna lì, sì o no? No, adesso la prima, molto molto prima. Ero convinto che fosse. No, vicino alla piazza c'è la Pomponio. Praticamente rimane, va, te lo spiego subito allora. Più o meno vicino al cimitero, ecco. Ma dove c'è il distributore? Più o meno, sì, più avanti, a parte più avanti. No, non ho mai visto le entrate, boh. Ma la piaggia non c'è più lì, no? Sì, già un di già. Vedo c'è solo via Coppino, mi pare, ma via. C'era questo da prima. No, è solo lì la piaggia. Da quanto so io, poi se ce ne sono altri non te lo so dire. Cioè, comunque già cerco di vedere un po' se ci riesco. Anche io devo chiedere, più informato. Lui conosce bene, conosce tutti i modelli, dice la sigla. E fa fare. Ce ne vai dove c'è la sua stazione, le baracchioni, ce ne ha, scatole, aerei, di tutto va. No, da piazzare. È appassionato, eh. Lo sai Luca che l'altro giorno uscendo dal Ciso ho visto una moto volando. C'è volando? Certo, questo qui stavo uscendo dal Ciso, ho visto quello scherzo che c'era uscendo in parcheggio. Io stavo uscendo a retromarcia e mi passa questo Luca Antimonster sparato, manco ho visto Luca. Stavo facendo retromarcia, non è che si è fermato, lo è passato e non è riuscito a raggiungere, ma va a matta di là. Manco di tuo viaggio. Subisci tu pure ragazzi, sento cazzo, guarda, vedo questo ancora volando, un tipo, prima lui ha volato la parte della moto, gli ha fatto la capriola, proprio qui ha cominciato a scivolare in terra. Cazzo, mi sono confermato con la macchina, ci aveva tutta l'unghia fuori della mano, tutto il sangue sbucciato nel ginocchio, nel gomito, e non voleva andare all'ospedale, poi ho chiamato l'ambulanza nostra, fatto che si è permesso adesso potevo andare a portarlo, comunque l'abbiamo medicato tutto quanto, c'è un amico lì e la moto si è fatta quasi in una, che ha avuto una canna, si è rotta la freccia dietro, un po' il cupolino del volano e poi ha consumato appena appena la maniglia la manopola delle cose dell'acceleratore. Farsi madurare già, cazzo, lui mi è passato, ma non sai come, cioè cosa di pigliarlo io, capito? Ho detto comunque tu stavi correndo, tu sei quello che sei uscito dall'isola di Persi, Sì, è vero, stavo correndo. Poi non so cosa è successo, ho visto il marciapiede dopo vicino alla ruota, mi sono cagato sotto, fratto di corpo, pizzato, la moto di sci. Ci hanno visto incorrere lì, poi perché c'è un bel pezzo, dai, e la lì la tirano. Vabbè. Ci hanno visto incorrere, già. Ma tutti. L'adrenalina è quella. Ci provano, no? Anche io ci avrei provato, però era molto pericoloso. Non ci va a fare. Adesso vediamo comunque, cioè, per l'elicottero. Vediamo un po'. Mi informo bene, vediamo quanto costa. Ci vuole una quanto avevo appena, poi vediamo se lui a cassarlo. Quanto stavo dicendo? Lui ha detto che praticamente voleva passare, c'erano le macchine che stavano, cioè che si mettono cose in fila per la rotonda, non per girare la rotonda, e lui voleva passare tra la macchina e il marciapiede, invece non ce l'ha fatta, si è avvicinato troppo al marciapiede, aveva paura di prenderlo in pieno, di cadere, allora ha frenato, e l'ha fatto in Luis. Guarda, ci manca la camera numero. Vabbè. Comunque quelle visto la rotatoria che hanno fatto lì, già, secondo me è una cagata, hanno sbagliato proprio vicino. E quella che hanno fatto dopo, anche stanotte c'è uscita una macchina, eravamo in giro con un amico e abbiamo visto questa macchina, praticamente tutto l'avanti era spaccato, da poco c'erano uscite altre due. E adesso c'è uscita un'altra macchina, tutto l'avanti era rotto, mi sembrava quella di Pierpaolo, lo stesso colore, lo stesso tipo. Ma no, ci è andato io. Sì, che sono andato. Poi sono tornato all'una e mezza e sono uscito con un amico. Gaffa, gaffa. Non andava. Eia. Eia. Oggi ho fumato un po', eh. Fanculo di sigarette in Puglia. Vai, Peppa, non ti sei dormito. Oh, peccato, è un bel momento del casco. No, non mi sono ancora addormentato. No. Non ero ancora sotto. Sono bello. Nell'ardillo ancora. Ho dovuto cominciare a portarlo. Ma devo dire il casco? E io tra ieri oggi ho abituato il caffè. Stavo sbagliando, l'ho detto in italiano fuori che dico. C'era uno che era svenuto, hanno guardato se c'era quel grano che danno ai tubi, ce l'è presente col tubicida, in caso si è reingerito quello e in più pastiglie, e hanno chiamato l'avvocato dicendo che si stava suicidando e che la sua parcella la trovava in macchina, nella macchina dove era lui, gli ha detto dove era. E sono arrivati subito per i carabinieri cercandolo, questo e quell'altro, tutte le parti, tranne che nel posto dove dovevo cercare. E noi l'abbiamo praticamente tolto, abbiamo aperto la macchina con un ferro, abbiamo preso un ferro che c'era lì, abbiamo aperto la macchina perché c'era il finestrino appena aperto, abbiamo entrato il ferro, l'abbiamo entrato la sicura, abbiamo tolto fuori, frattempo che non c'erano manco le ambulanze per cartello d'urgenza, l'abbiamo caricato sulla macchina di un volontario e ce l'avevo bussato lui. Ma non so se si è salvato, se l'ha preso quasi un tubetto di medicina e in più ci aveva ingerito quella cosa dei tubi, non so come cacchio ha fatto. Che schifo, per carità, e allora voglio anche con le capi. E io, la moglie l'aveva lasciato, la moglie e poi se l'ha messa con un'altra donna e anche questa qua l'aveva mollato. E questo carabiniere ci ha detto, canta, ma voi non è che prima di fare i volontari avete fatto gli scassinare tutti? E qualcuno sì, la verità, eh? E lui ha detto, no, non l'abbiamo fatto solo per il medico, no, dai, scherzo, mi ha detto, avete fatto benissimo prima. E fatto sta che è arrivato l'avvocato, la prima cosa che ha detto, ah, quella parcella è la mia. Che la verità si dica che abbiamo visto in passato qualcuno che non è che gli aveva dato presa al collegio. E chi era? E la sua era. E Casalzini non abbiamo mai avuto. Casalzini, no, sicuri. E di quelli col buco neanche. Alla Croce Blu stai dicendo dove? No, no, no, io al cito. Come risulti a me, no? Va, figlia, figlia. Io ne voglio dire, no, ma come cogliamo, vai. Ma dove, nella sede nuova o nella sede vecchia stai dicendo? La sede vecchia. Beh, lì c'è la gente che magari lì era tranquilla e dopo quando è uscita da lì ha cominciato a bucarsi. E anche diventare delinquente dopo, già adesso è qualcuno anche tu. E allora non me ne dici la presa sabbi, anche quando la lì c'era qualcuno col buco, che sono sparito. L'ho tappato solo. Non lo so, per pari, non mi ricordo di chi fosse mettere su davanti, perché se lo sapevamo lui, già lo sai che non entrava nei sei anni. Sì, vabbè, già sono spariti, ma ce n'è voluto anche per farli sparire, quando sono entrato io per farli sparire, ce n'è voluto. Sto pensando chi possa essere, ma non mi viene, non mi viene proprio, dimmi tu chi c'era, ma della Terò c'era. Pisa. Cisa. Pisa, giusto, Pisa. Ho capito, capivano lì. Allora io lo sai, allora, che dico lo sai. Ma quello è successo dopo. Facevano le cose, ma all'inizio no. Sì, all'inizio no. All'inizio non lo sapevo nessuno, ma io già lo sapevo però. Perlomeno. Vabbè, ma hanno durato molto poco. Forse non ti ricordi di Vanessa allora. Io già un anno ho fatto, veramente non ti ricordi che era lì, era fatta messa. Ma messa non me la ricordo, lo sai. Comunque io mi ricordo solo un particolare, che una volta ce l'ho chiamato i carabinieri, ancora quando non c'era 118, e mi hanno detto al mio telefono, aspettate che arriviamo noi perché l'ultima volta ci hanno tirato lo scaldabagno sulla macchina. Siamo arrivati lì per fa, c'era una pozza di sangue, ma allucinante, nell'angolo del portone. Io ho chiesto cosa era successo, e c'era anche lui. E lui ha detto, ma è successo? Non so niente io, non ne so. Boh, sono fin tanti che non mi conoscevano, capito? Poi ho chiesto agli altri, nessuno sapeva nulla, abbiamo seguito le tracce del sangue. Siamo saliti dalle scale, c'era questa qua, lunga bambino va via. Genero gli aveva tirato un cantone in testa. Più una donna che ha visto la scena è svenuta, è stata male dentro casa, è venuto a soccorrere una e l'altra. Ma comunque dopo scena l'ha ripulito un po', però ovviamente, e siccome io conoscevo un po', già ci vengono, ecco. Infatti sì, già è vero che all'inizio stavano entrando persone un po' così, però poi già si è migliorato tutto. Perlomeno da noi hanno sempre marciato bene. Ma tu quando sono entrato io non ci venivi di lì, ma finalmente quando sono entrato io già c'era un po' che... Diciamo che io ho fatto il tosto, sono riuscito un pochettino a... Ma ti assicuro che di aver accettato qualcuno che non era... Cioè appariva bello bello, invece non era così bello bello. Allora Pierpa, io dico una cosa, ma sai come ha cominciato il ciso con il servizio ambulante? Io so perfettamente come è iniziato. Ma sai perché tu non c'eri ancora? Praticamente hanno cominciato da noi, all'altro circuito, hanno messo l'ambulanza a loro e noi le abbiamo fatti i corsi, le abbiamo, io personalmente li ho portati a fare i servizi, gli ho segnato le cose, anche se Giancarlo era un po' duro, non voleva mai capire le cose come gli dicevo, faccia sempre a cabusui. E dicevo, Giancarlo, se ti dicono che la barella la devi abbassare giù e chiudere il portone, perché non si sa mai... Chiudi, no, no, il portone, metti la barella giù come ti dico, no, canta, vuol dire, là c'è l'alzata la barella, là c'è l'alzata, vabbè, là c'è l'alzata, dopo il canta, quando devi pulire la barella a cucchiaio, ho fatto i grembi di vecchina. E hanno cominciato da noi, poi una volta abbiamo bisticciato per una cosa, che se vuoi ti dico anche, praticamente si dividevano le offerte, no? È capitato un viaggio a Cagliari, praticamente il viaggio l'abbiamo preso noi, loro le abbiamo detto metà per uno, e dice no, noi vogliamo di più perché mettiamo l'ambulanza, e si è incantato il centralinista e gli ha detto no, se tu metti l'ambulanza noi stiamo mettendo il servizio, se tu non avessi avuto il servizio nostro, non avresti, eravamo d'accordo già così poi. Beh, fatto sta che alla bisticciata le ha detto il giorno dopo di portarsi via l'ambulanza che non li voleva più in mezzo in piedi. Vabbè, ma ci sto parlando che quando venivano con l'ambulanza lì in via Antica, ma non avevano iniziato qua aperto la croce e tu non ci eri già. No, io ero la croce blu ancora. Poi ho fatto un paio di mesi all'Avis e poi sono entrato lì. Infatti, se non ricordo bene. E quando sono entrati lì, in pratica, quando sono entrato io qua, c'era appena un mese, era appena un mese aperto, se puoi immaginare. E avevano chiesto in quel 238 che bisognava cambiare piano dietro e non poter muovere molto. Perché ne scendeva il fondo, io non so. Tu che anno sei entrato? E io me lo ricordo adesso, principalmente, ma... Era proprio all'inizio, dai, quando era arrivato questa camera di qua, e quindi ricordo bene, su quel 238 io già ci ho camminato, bisognava che era un bel tempo, non ho niente, si va parcheggia, e poi non è che camminasse neanche tanto bene, allora tu ci avevo i pizza pure fatto nei moto. Sai che poi ti leggo un documento, che praticamente ci ho vecchi diplomi e un attestato di quando ci sono, aspetta che quello qua. Tu, 4 minuti ci sei. No, mi stavo andando qui, ma era 7. No, 9. Come tutti volevamo siamo un elicottero, che si mette a realizzare. È una strage. No, l'hanno sparato, si sta facendo olio, vedi il buco, va. Eccetera eccetera, la tassa se è il residente presta regolarmente servizio presso la decisione di Sassi dal 20 10 93. fosse entrato proprio quel 93. K. E io probabilmente, forse credo, ma non lo so, ma credo di essere entrato nel 91 o nel 90, non lo ricordo, ti potrei dire anche una fesseria. Comunque un po' di anni ci sono anche io. Sì. Certo che sono passati un po' di anni. Hai conosciuto tu la Alessandro? Chi è Alessandro? Con Alessandro Dore. E io anche Ferraccio. Quello che si era ammazzato. Poi. Può darsi, non mi sembra nuovo il nome. No, ne parlavano tutti, se ne era parlato a lungo. Non so, non me lo ricordo. Nome non mi è nuovo. Si era scritto lo stesso giorno che ero più. Si è ammazzato, non mai sentito sinceramente. Nome sì, però questo fatto qui non l'ho mai sentito. Poi si era scritto anche con il mancante di Attilio. Sì, Attilio lo conosco. Che l'abbia seguito a Vicenza con un vero. Io ti vorrei ricoverare il malecumio, esaurito. Una volta si è attaccato con me, visto che lui abita tutto sotto il supermercato, si è incazzato perché dice che i dipendenti devono mettere la macchina da un'altra parte e che lui quando arriva a casa per mangiare non trova mai il parcheggio. Non sai cosa è successo una volta, non so, ti ricordi di Marco Polo? Chiamavano anche il giro, me la facevamo 12 ore. Ed era anche la prassi che loro volevano in protezione civile, in comune lì, no? Volevano fare il cambio di un autista almeno di 2 ore, per darsi il cambio almeno di 2 ore. Già noi molte volte avevamo un solo autista, ma quando capitava ne avevamo 2, poi anche l'altro voleva andare a quindi lui era tutta la mattina che stava guidando. A un certo punto alle 2 gli ha detto Attilio, adesso trovo una piazzola e passa la macchina a cosa da mettere il cambio, anche perché in protezione civile ti stanno tartassando di fare il cambio dell'autista. E invece lui sembra andato subito in scadescenze, tu non mi rappresenti nessuno, stai mai in scadescenze, e non voleva fermare la macchina, e lo so, dice adesso mi tiro all'albero, cazzo, alla fine gli ho spento la macchina, gli ho tirato il freno a mano, e sono riuscito a bloccare la macchina, un fatto che lo ti dico, alla fine gli ho buttato, l'ha già grattato il barugù, l'ha già appoggiato la macchina, grazie, tragedia tu di luce, due chiaffe, grazie, mi hai toccato, io ti denuncio, guarda, era un pazzo che non ti dico. E la volta che abbiamo seguito a Barre di Bocco, Barre di Bocco era tutto un paio di giaffe, cose, allora era a casa, sembrava tutto finito, che c'erano due uomini su ferro, che si chiede, io, Barre di Bocco correndo, e di quello ferro fatto, che tiravamo un rimadone, anche se no, io fuori a Barre. Sì, la di me non vedeva. Il Barre di Bocco vuol dire che era abbastanza calmo, tranquillo, anche se no Barre di Bocco è armato pure. L'avrebbe sistemato bene. A mano l'hai cutto. Infatti lui ha visto che l'hai cutto, allora è andato a casa e si è armato lui. E la guarda mia. E se lo mirava il duro, ferro. E mica non è mai come Vincenzo. Vincenzo è bravo, bravo, però si è complicato, si è già difendito. No, è per la fine, là, quello. Però sempre quello lì voleva rinchiuso e non tolto mai più. Fuori strada perché era un tipo pericoloso, ma sai che la tira aveva picchiato anche donne, mi lo sai? No, non lo so. Io so solo una cosa, che ha lavorato con mia sorella e mi ha detto che era uscito di testa quando era in aviazione, che gli facevano praticamente fare discese col paracadute ed è diventato maculatrice perché temeva. Ah già, è vero che da ragazzino così, da ragazzino ha avuto problemi anche a scuola e tutto, lo stavo dicendo, perché ho studiato, da ragazzino ha avuto problemi seri quando era a scuola, e chi la conosce allora, dai. E io già te dico una di un intervento che ho fatto. Ma perché siete? In anticipio ha dato fuoco lui, sì, lo sapete. Ha dato fuoco lui? E lo sapevi? No. E te lo dico io però, è stato arrestato anche. Il giorno non c'era niente di cose, e tutti pagavano, lui tutto il mio permesso, era qui il giorno prima di Ferragosto. Allora lui si è allontanato, cosa? E ha dato fuoco lui, gli hanno arrestato i carabinieri. Madonna. Ma cosa? L'ha fatto, la sa che l'ha fatto arrestare. Niente, qua, chiedi a lui allora, e tu non dici lui che l'ha fatto arrestare, se non credo a me. Ho detto Madonna. Chiede a Gianni Rambo, vai, allora che l'ha fatto arrestare lui, a Giuliano, ma non ha il culo, la giusta, e va, sapete che muro, dimmi. E vabbè, quella è una delle poche che ha combinato. Lo sai quanto ha fatto Gianni, sì? Lo sai che gli ha messo la manetta lui davanti ai carabinieri? Il campus. E lui, che non ti è mancato, gli ha messo lui. E cosa ha detto il carabinieri? Quello lì è pazzo, quello non te lo mai ricordato che abbiamo legato un palo con le manette e poi ci aveva dimenticato le chiavi a casa lì punti. Cioè, sono stato più di mezz'ora con le manette attaccate al palo, che tutti quelli che passavano mi guardavano per stranamente. Io lo so già, cosa aveva fatto il carabinieri? Aveva detto, non c'è, aveva detto, gliele toglie, non le faccio mai più. Gli ha dato le chiavi per aprire la perdita, la tolte e loro gli hanno messo le loro. Tanto sono i carabinieri di quello che c'ha lui. Ci sono originali. Sai compare da c'è. Da c'è. Devo dire, era un pazzo furioso. Una cosa, beh, non lo so, io so che però, per esempio, ho picchiato una ragazza, lì ha rischiato stesso l'arresto, e te lo dico perché la conosco più, questa ragazza, io per niente, perché a me fa tutta la fissazione sua, perché dice che lo guardava male, due volte. Qua magari si incontravano e incontravano lo sguardo e basta, ma qua dice che non avevo detto mai niente. E lui invece si era messo in questa fissazione e me lo guardava male. E lei cuca. Io sono più capo del dottore, si poteva sopra di noi, sopra di lui. E lui è bene. Tu ci sei andato anche a pescare, a quel rischio che ti ha provato. Aspetta, lui a me mi ha trovato pescando, si è avvicinato, è diverso, non so mai andato con lui a pescare. Comunque un pazzo, guarda, io lo conosco da tantissimi anni, anche prima di entrarsi lì, ma conosco anche le persone alle quali è stato a scuola lui, e tra l'altro lui è un grandissimo amico mio, dai. E poi conosciamo anche parenti suoi, cioè io conosco dei parenti suoi, quindi lo so per quello. La normale. Normale. Beh, allora, guarda, da quando l'hai conosciuto tu sei risalito, non lo so, Vederlo così esternamente, non c'è una faccia tipo losco, dai. Ma se certamente, se lo vedi così, non lo so, ma diciamo che anche di lì non si è comportato molto bene, cioè se tu dovessi chiedere la gente che sa che cosa ha fatto, certo guarda, anche quello che è successo un paio di volte con me, perché con me ne ha avuto più di una, ma quella in antincendio, se conosci Marco Polo, certo non te lo puoi dire perché sai da quello. Se non è riuscito. Eh? Se non è che l'hanno mandato via. No, è ancora a Torino. A Torino. Ha trasferito l'uomo dalle cacce di Sassi. Sì, da un giorno. Comunque l'hanno data lui la colpa, così. Sì, beh, l'hanno data lui perché era lui. Quello dice che gli hanno fatto un'operazione, gli hanno messo la pelle di pesce in cane. Cosa gli hanno fatto? Ha fatto un'operazione, gli hanno messo la pelle di pesce in cane, che dice che è compatibile con quella dell'uomo. No, no, questa cosa non la so. E ma comunque, penso che dovrà, se non è buona condotta, penso che stia per uscire. Quanti anni ne aveva? 7. Era appena sposato, mi pare. Te immagini che gli hanno dato di più per tentato che per omicidio? No, per omicidio ti danno l'ergastolo anche. Praticamente lui, però, è tentato omicidio, quello lì. Sta abitando fuoco in tutto il corpo. No, no, non è così, l'ergastolo lui non lo rischiava, non era cosa dell'ergastolo, tutto lui poteva beccarsi da 3 a 5 anni per il tentato, però siccome ha dato fuoco c'è anche la tentata strage, e allora l'avevano condannato a 7 anni, e 7 anni qualche cosa, e comunque credo che con la buona condotta adesso stia per uscire. Se ha fatto buona condotta, ma io a lui l'ho visto subito un paio di mesi dopo che l'avevano liberato. E beh, fino a sì, l'ho visto anch'io fino al processo, ma subito dopo la condotta. Beh, noi portiamo la bandiera alla madre anche. Quello che stavo dicendo, che praticamente anche lui era un pezzo da 41. Insomma, beh, che era tanto gabbo già nel 2001, un gabbo l'aveva dato a tutto, perché giustamente da quello che faceva, non lo so se tu sai. Esercitazioni e cose varie, già me lo ricordo. Una volta è venuto in sede e si è sbattuto fuori malamente, io lo sai. Non lo so, io non c'ero, probabilmente non c'ero già più. No, ce l'ho ancora. C'era Sabrina, la figlia di California, te la ricordo. Da Bira Bizzarda e da Bira Lassata. Battona, questo, quell'altro, certo. Oh, come ti permetti, gli ho detto, ma cosa ti chiedi, casa tua? Adesso saltami la porta, non ti permetti di entrare qua dentro. Fino a quando avranno un nuovo ordine. Ma qua, là, io partecco al gruppo di plug, allora vattene nel gruppo di plug e fai la persona educata. Stavo scherzando, non me ne frega un cavo. Tu vai e fai la persona educata, ma la tua via fa male a me. Avete fatto bene. No, a me non è che ne stava particolarmente simpatico, lo stesso, perché aveva un modo di porsi che non mi piaceva per niente, ecco, pure era molto vanitoso, e poi anche sapevo quello che faceva la fondazione, non so se lo sai, mi stava particolarmente sulle scatole anche per quello, perché se parliamo di gente baratta, di gente che sta male, so come tratti le persone, specialmente quando sono persone indifese, e così dicendo, sai, finché parli con me che ti posso rispondere sia a parole che sia come voi, mi sta bene, ma quando addirittura so che tratti in una certa maniera quelle persone, allora a me non mi piace neppure, ma capisci la tua cagliente. Beh, lo sai che te ne approfittano, vanno quella persona lì. Io ne ho girato istituti perché faccio consegne, ma ne ho visto di tutti i colori, vabbè, lasciamo perdere. Infatti gli istituti per me c'è una croce gli istituti. Ah, Serpa, a proposito, quando c'è il tempo, un giorno vieni a casa e ti faccio leggere fuori cose. Oggi ho beccato tutte le magagne del condominio, tutti i bigliettini che mi faceva, un articolo del giornale, tutto là. Ehi, a chi è questo bip? Avanti. Avanti. Poi vado a bere un bicchiere d'acqua. Cosa? E vado a bere un bicchiere d'acqua. Chi è? Avanti. Come c'è? Come c'è? Vera, vera, se mi cupi, cambio. Come mai? A quest'ora? Con portare in giro, siga. Allora, vera, la giornata stamattina è già presto, Non ci credo, dai. Stai andando a fare qualche commissione. No, negativo, sto rientrando, Pietro, rientrando. Ah, stai rientrando a casa? Perché mi sembrava strano. A che ora esci domani mattina? Alle 5? Alle 4 e mezza, alle altre, alle 5 sto qua a te. Cavagava. Anche noi domani mattina, presto, a scaricare. Capo, lunedì per fa, no. Ma che, domani è pesante per noi. Cavagava, adesso in questo momento ti sto ascoltando a basso, ma sono nella zona di bancari per fa. Tra un po' dovrei riuscire a tirarti meglio fuori, Posso ascolti meglio Antonio adesso? Bellino, mi senti? Già, mi ascolto, buonasera anche a te. Con la voce un po' addormentata, sì, no? No, sto usando un'altra radio. Cos'era tu? Sto usando un'altra radio. A cappa. Mi sto svincolando qua, per mi zio io adesso. Ma qua mi arrivi forte e chiaro, se fa problemi. Che tu hai migliorato, siccome Bancali già lo sai com'è, no? C'è una montagnetta prima di arrivare qua lo svincolo in Virgilio e da lì non riusciamo a tirarmi fuori. Cioè, a te fanno già l'ascolto, passo ma già l'ascolto. Sì, K, no, forse tu ascolti più a me, no, a lui. K, ma quello sì, insomma, già l'ascolto spesso. Avanti, per Paolo, vediamo se è migliorato qua. Aspetta un attimino, tu lì, ti cambio la radio. Migliorato comunque, che fa? Io quando sto arrivando lì? Santa Lucia, Radio 4, tirato. Perché col baracchino della mutua, lo stavo facendo girare un po'. Questa stanotte uso questo, però già va bene. Se uso l'altro, vedi che sale. Quanto ti arriva, bravo, vieni avanti. Ehi, già, le detto che già mi sente, quindi già va bene. Ti sto perdendo di nuovo, Pierpa, eh. Deve essere una negativa qua, eh. E dove sei? Sono tra Visilio e Valdica, in quel discensore. Sicuramente qua è una coperta, Pierpa. Lì per me è un po' tribolo, No, per me va bene. E per fortuna dove non arriva uno arriva l'altro. Allora lì mi ascolti ancora? Sì, senza problemi. Ah, tanto già vi ascolto, passi ma già vi ascolto. Qua questa zona è negativa, tu. Io lo sapevo tanto, queste zone sono negative, soprattutto San Giovanni, mi via Baldinca. Quelle qua non riesco neanche a uscire io. Sì, perché sono sotto. Gava. Perché una volta provava 1-3-1, direzione ottava, arrivate tutti alla grande. Giovanni risulta sotto per quello che non riesce a prendere il fossato. Già, penso sia stato anche il QRM in questa zona. E comunque nel Milan lo fa, che a me in macchina di mia moglie me lo faceva. Sembra molto disturbato già. Molto disturbato. Dipende dalla zona dove passa, si alza, si abbassa. Iaia. Vabbè. Questi cavolo di ripetitore che sta a fermare fanno un po' di casino soprattutto dentro la città fanno anche l'inquinamento atmosferico. Ma tu pensa già che se io scendo la macchina ecco la 48 allora non perdo più nessuno e persino anche io eppure il divisore è più bacio a lui. Dipende sempre dai canali che trovi per le onde. Vabbè, ma è incredibile, no? Che dalla macchina arrivi dappertutto, senti tutti, e invece da qua che è più alto non ce la fa, capito? Vabbè, quella della macchina ha senz'altro più guadagno, quella antenna, guadagna, c'è un piano riflettente che vuol dire molto. Ma lo sai che per esempio nel motocarro adesso non è più a fase magnetica, adesso ci ho messo la staffetta, con la staffa è collegata alla carrozzeria, bene, e tutto quanto, il cavo a 550, insomma ho fatto tutto bene, no, adesso esce una bomba anche da no. Però non monta la macchina stessa, la macchina va proprio bene. Va ancora meglio perché c'è il piano riflettente. Sì, io mi sono accorto che funziona meglio. Funzionano meglio tutti e due i baracchini, anche quello più piccolino, non è male, adesso esce più giusto anche perché già quello piccolino insomma ha le sue difficoltà. Mentre invece la 48 la sorte spinge di più. Ma adesso come ha fatto tutto il cavo a misura, bene, e con già stazionarie, cos'hai nella moto, con il DL1000, se non gli facevo il cavo giusto con la staffa e con tutto, fischiavo e basta col microfono amplificato. Invece adesso come è giusto con la stazionaria, non mi fischia più, insomma è giusto anche la moto. Sono riuscito finalmente a farlo. Invece la base magnetica va la sorte anche col cavo giusto 550, non funziona. No, quindi tante volte ho ragione io, ho detto che potevano essere stazionali per chi fischiarla, erano quelle sicuramente. Pare che non c'ha nulla, il microfono c'ha nulla, se c'è stazionale comincia a fischiare. E quello nella moto poi non lo so, se attacchi altri microfoni non fa niente, ma se attacchi quello lì, no, comunque c'erano stazionari, ma adesso è tutto fatto giusto, il cavo ben fatto, tutto quanto. ma già va bene anche quello piccolo. Ma fatta se la ce l'ho io, quello si sente. K. Oh, stasera abbiamo aumentato tutti e due, abbiamo aperto il coso del microfono, tutti e due, gli hanno ancora tutti. Allici. E via. Beh, come va? Non so, fino a poco fa come stava andando. E voi non ci ha fatto un caso, bene mi pare, perché se ho detto uno stava andando bene. Non so, come sentire con il microfono normale. Fammelo sentire a vedere. Aspetta che attacco il microfono normale. Eccolo lì l'apparato. Ecco. Avanti. Beh, ragazzi, saluto le aree, sono arrivato. Saluto di Matteo Paolo, dato che stava a cambiare il microfono. Ci ascoltiamo le prossime linee se coincide. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Tori. Ciao, Torelli. Ci sentiamo domani, dai. Ciao, ciao. Regala. Ehi, ehi. E per qua, non me lo sentire io. Ha aperto il microfono. Io col Midland come ti arrivo? Vabbè, ho quello normalissimo, non trovava 48. Arrivi bene. Quanto? E fai segnale solito. 9.30 fondo scala. No, con questo apparato no, io sono con la 48, aspetta. Hola, hola, hola, hola, hola. No, sei 9.10, 9.15 là. Hola. Sì. Beh, devi contare che c'è questo apparato. Ma anche per Paolo poco fa mi arrivava così. Perché l'altro ha ripreso tutto di smicchia, là. Senti, questo qua è il microfono normale. Esce normale, là. Normale, non c'è differenza da come ero prima stasera, non l'ho detto? Non mi sembra per qua, sinceramente, il lavoro di trafessidia non mi sembra normale, che esca normale come sempre. Tu dice che di nuovo intanto la come prima adesso. Oh, può darsi che mi sbaglio anch'io, che non abbi presente come era prima, mi sembra che non abbia buttato molto. E con microfono amplificato invece? Non lo so, ma tu ce l'hai a tutto. Ah, faccelo io con questo apparato qua. Aspetta, posso attaccare, ma ce l'avevo prima. Timer, come dice tu. Che c'è bene col timer. Siamo col timer. Eppure questo apparato c'è col timer. Questo piccolino che sto usando io adesso. Cosa? È un Midland. Chiappa, non è fortissimo, però si fa sentire abbastanza bene, dai. Yeah. Fammi sentire, Giampa. Senti, questo è un Midland con timer. Certo, mia bomba. Devo tenere basso perché vedi si alza, se no inizia tutto quanto a sgarrare, senti, così invece mi sembra che vada bene. Allora, puoi abbassare il mic gain, prova a abbassare il mic gain e te ne va a basso. Allora, così, vediamo un po' com'è così. Così va bene. Così va bene, a meglio è. Va bene. Il macchinino quanto ce l'hai? Metà. Va bene così, non fischi. Ma guardiamo ancora di più. Il macchinino. Ma se lo alzi, alza ancora, sino a quando fischi. Così? Adesso portalo indietro appena appena. Così? Ancora un po'. Così? No, ancora un po'. E così? Basta appena appena ancora. E tu lo va? Così va bene. Benissimo. Dove è forte adesso? sento ben forte. Così com'è forte? Aspetta. Fortissimo. Perché così io parlo da almeno 65, la lunghezza del mio braccio. Ma tu stai parlando col microfono al massimo? Adesso sono col microfono, no, sono col timer. È al massimo. Il timer è al massimo. Va bene, dai. Questo è sul bidon, era 48, così? Sì, sì, sul bidon 48. Cioè, in pratica ho creato uno spezzone come quello che c'è nell'altro, no? Ho fatto spezzone e lo posso usare su tutti i rigard adesso, ma su tutti i 48. Lo posso usare anche su quella da 100. Ehi, ehi. Va, buona attività. Io sto spegnendo, va. Ci sentiamo domani. Buonanotte. Buonanotte anche a Bobo e a tutti gli altri amici che sono all'ascolto. Dai, ciao, ciao. Io che capa, ciao ciao, ci risentiamo al prossimo. Ciao, buonanotte e buon lavoro per domani. Ciao, ciao a tutti, io sto ascoltando la nostra più grande proprietà. Ciao a tutti. Ciao, ciao Luca, buonanotte. Ciao Luca, ciao, ho dimenticato di te, mi credo che ci ha dormito. No. Sono alla TV, là. Non è tu che parlare. Lascia a voi, un po' a voi, là. Ok, ciao, ci sentiamo al prossimo, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao, tu, ciao, ciao, ciao a tutti. Buonanotte, Luca, ci sentiamo alle prossime domani, dai. Ciao, ciao. Ma comunque. Ma mi sembra che c'è un altro venire anche, non so se mi ascolta, non so come l'ha fatto, è arrivato. Sì, Torellino è già arrivato e ti ha salutato. Vabbè, forse qua stavo cambiando il mic. Va bene. Ti è chiuso la buonanotte. Buonanotte. Anch'io va. Hola. Siete nel volo.